Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Tumbi Frecuencia y Radio Onda Rosa. Buonasera a tutti e tutte nel 87.9 di Radio Onda Rosa. Si comincia una nuova puntata della Esquina del Soul alle 17:06 minuti primi sull'87.9 di Radio Onda Rosa per Roma e direi altrove sì, perché mi è capitato di andare in macchina anche al di là del grande raccordo e sintonizzare ancora Radio Onda Rosa. Per il resto del mondo ovviamente il www.ondarosa.info, da quella forma virtuale, attraverso la forma virtuale potete far parte di Radio Onda Rosa come ascoltatori e ascoltatrici. Quindi il benvenuto, si parte, si comincia una nuova trasmissione che mi trova nuovamente solo. Mariano vi saluta a tutti, tutte e tutto. E dicevo, come la settimana scorsa, solo qua in solitario negli studi di Radio Onda Rosa, però non solo nel sentimento, sempre accompagnato, perché ovviamente ci abbiamo in comunicazione telefonica alla nostra anima protettrice. Sto parlando di Marta, a chi saluto in questo momento. Marta, come stai? Sei là? Ma siete sicuri che volete che vi proteggo? No, sì, perché insomma sono un tipetto, sì, niente male. No, ah, dai, c'hai delle spalle belle, grosse e larghe. E abbiamo bisogno ancora della tua protezione, Marta. Come stai? Bene, bene. Sì, diciamo, stiamo bene, sempre meglio, direi. Vediamo se oggi abbiamo fatto quello che ormai qui abbiamo denominato il tampone della liberazione. Speriamo. Quindi ecco, abbiamo 72 ore di speranza per poi, che ne so, riuscire, che ne so, se non altro a vederci un film sullo stesso divano e chissà anche andare in una terrazza condominiale a prendere il sole. Almeno. Sì, no, vabbè, notavo l'altro giorno, insomma, il primo lockdown, io mi ricordo, c'era questa vita in upper life, cioè la vita in alto. Mentre io di solito vado a Sandy Man nella terrazza condominiale, ci sono solo le cornacchie, invece le terrazze sono riempite chiaramente di vita, quella che non si può fare nelle strade. Certo, e guarda, niente, quindi io come non ci lamentiamo. Come ecco, cittadino che ovviamente rispetta tutte le regole, soprattutto quelle dettate da questo governo dei migliori, esco ovviamente il giusto e necessario per poter sopravvivere. Almeno mi permetto questo, cioè questo vizio di voler sopravvivere e campare ogni giorno. Sono uscito, sono stato qua in piazzetta, nelle vicinanze di Radio Onda Rosa a Via dei Volsci, e la parola era tristezza, veramente a San Lorenzo, un quartiere così movimentato nel bene e nel male, perché quel movimento sociale a volte non è sempre della comunità che lo fa, se no sappiamo del turismo, degli studenti che vanno e vengono, che quindi svuotano, riempiono una città secondo le stagioni. Ma era triste veramente l'immagine che ci propone questo lockdown. Tu quanti giorni stai per fare più o meno? Perché ancora dobbiamo aspettare 72 ore, quindi quanto? Ma io direi che siamo almeno a 21. Così l'altro giorno vi dicevo, siete dei ritardatari, sì, cioè, avete iniziato la zona rossa ora. No, però sì, mannaggia, però ti ripeto, insomma, questi isolamenti, questi strani isolamenti, poi il mio indubbiamente forse più che l'isolamento in sé è stato strano proprio dove stai isolati dentro casa, divisi, che forse è un po' così, è un po' la ciliegina sulla torta, che non ti puoi mettere neanche sullo stesso divano a vedere un film. Ma devo dire che insomma, se posso dirlo, insomma, abbiamo un tetto sulla testa, con una che è una garanzia di questi tempi non indifferente, abbiamo una rete di persone accanto che è la salvezza, credo, e abbiamo la salute, perché nonostante tutto, appunto, mio figlio non si è ammalato, è stato bene, diciamo che abbiamo già dato negli anni precedenti, ma comunque, quindi già questo ci fa sorridere, ecco. E sì, lo stesso che auguro anche, insomma, compagni e compagni della radio, e non solo, a chi ci ascolta, che stanno nelle stesse condizioni. So che anche ci sono state persone che, lo sappiamo, sono state infinitamente male, quindi ecco, sicuramente noi dobbiamo solo portare pazienza, oltre ad aver capito che ci è andata molto bene, quindi va. Senti, bene così. Marta, mettiamoci nella puntata d'oggi, cosa possiamo dire? Allora, la puntata di oggi, diciamo che c'è sempre questa data del 5 aprile che sappiamo si avvicina, che io lo ricordo adesso in entrata, così poi lo diciamo, che è da tenere attenzione perché sarà la sentenza dei compagni di San Antonio. Ma sicuramente poi oggi torneremo a parlare di più di territorio Mapuche, direi da una parte all'altra della cordigliera, perché abbiamo un comunicato appunto che ci raccontava di quello che è successo nel Rotro Fue, con tanto dell'arresto di un compagno dell'OFF e la sua persecuzione politica. È molto bello vedere come vengono accompagnati nelle loro scelte politiche tutti questi compagni, quindi come subito venga ritenuto un prigioniere politico questo compagno e come gli altri che hanno fatto delle scelte diverse ma sempre di resistenza vengono poi assunti come nella lotta comune. Certo. Parlerai, poi credo parlerete di incendi, parleremo un po' sì, di fuoco, sì, che perché... assume... esatto. E quello che succede dall'altra parte degli Andes, nell'Argentina ci sono stati degli incendi di bosco, di foresta nativa molto importante nella Patagonia, e purtroppo di nuovo in questa vicenda, all'interno di questa vicenda che c'ha tanto di interessi immobiliari e delle miniere dentro, giocando e forte anche con i governi locali, succede che il capro espiatorio è come sempre il popolo Mapuche, però ne parleremo sicuramente dopo. Ne abbiamo novità sul caso pure Mario Acuña. Abbiamo novità, per tornare poi diciamo in Cile, abbiamo novità sul caso di Mario Acuña, sentiremo un breve audio in cui Marianna, che è la, diciamo, la portavoce della famiglia, ci annuncia questo progresso, diciamo, delle indagini e quindi l'accusa a 3 carabineros che l'hanno picchiato. Sappiamo che non erano solo 3, ma insomma già questo per come funziona la giustizia cilena non ci sembra poco. E quindi insomma ricordare che Mario comunque, oltre ad essere un resistente totale, non so chi ha visto il video che abbiamo fatto sul nostro blog, c'è lui che parla, e sicuramente è uno spettacolo abbastanza pesante vedere come è stato ridotto, e si è andato a cercare poi le sue foto della storia della sua vita, ma è bello vedere come mentre Gerald ci parla di lui con tanta fatica riesca ad alzare un pugno, a sorridere, a farci vedere che è ancora assolutamente un ribelle, ecco, e quindi fa parte della sua lunga lotta questa piccola battaglia vinta. Ne parleremo pure di questo, come diceva Marta, con un audio. E se ti pare, Marta, cominciamo con un po' di musica. Io ti chiederei, resta là in linea, dopo decidiamo tra di noi cosa facciamo, però sì, se ti pare andiamo con un po' di musica, dai? Ma certo, mi sembra ottimo, non deve mancare mai. Allora ci sentiamo tra pochissimo con Marta, che resta in linea, continuerà a partecipare, farà parte e parte lui e lei e questa Esquina del Sol, che nel 87.9 e alle 17:13 minuti primi di questo giovedì 18 marzo 2021, che sembra come il quindicesimo mese del 2020, no? Più o meno a questo punto, perché siamo tornati nel tassello d'inizio, come nel gioco dell'oca sembrerebbe, con questo lockdown che ci trova così. Però andiamo ad ascoltare un po' di musica, e lo facciamo con un orchestra argentina, che a questo punto sono praticamente dei residenti qua sulla Esquina del Sol. Quello che comincia a suonare, quello che si ascolta, che si sente nell'87.9 di Radio Onda Rossa, www.radioondarossa.info per il resto del mondo, è la Delio Valdés, orchestra argentina di cumbia, che ci porta al mare, a ballare una cumbia sopra il mare, dedicata ovviamente a Marta, la nostra regina, anche se non ci piacciono quei titoli. Cumbia sopra il mare, la Delio Valdés, sull'87.9. Me quedé desierto de Sonora, Tucson, Arizona, avenida feliz para el mundo. Ya siete 18 minuti, comincia appena la esquina del Sol, solo 87.9 di Radio Onda Rossa, Orquesta Mendoza, cumbia volcadora. Quello che ascoltate, per cominciare a ballare un po', non lo avete fatto ancora in questa giornata, ancora nella prima mezz'ora della esquina del Sol. Questa è la proposta musicale per questa serata, ne parleremo di altre cose. Marta, sempre in linea, la nostra anima protettrice, la pronta. La esquina del Soul comincia con l'Orquesta Mendoza, cumbia volcadora. Si llegas tarde te corre la pandilla. Óyeme carnal, desde las manecillas, que si llegas tarde te corre la pandilla. Tienes que ir en chinga para poder llegar. Maneja con cuidado, no te vayas a matar. La gente ya te espera para verte luchar. La gente ya te espera para verte luchar. Que si llegas tarde te corre la pandilla. Óyeme carnal, detén las maldacillas. Que si llegas tarde te corre la pandilla. Tienes que ir en chinga para poder llegar. Maneja con cuidado, no te vayas a matar. La gente ya te espera para verte luchar. La gente ya te espera para verte luchar. E si torna subito alla diretta, l'87.9 di Radio Onda Rossa con la Esquina del Soul, per cominciare a sviluppare, diciamo, il contenuto che di qualche forma abbiamo promesso con Marta. Marta, la quale, se non sbaglio, e niente è andato male, ce l'ho dall'altra parte. Marta, ci sei? Sì. Eccomi, sono qui, sono grande, qui. Che contento che sono. Dicevamo, cominciamo con il materiale e parliamo di un comunicato, una nuova incursione militare. Cominciamo a dare un po' di contesto, adesso leggerai il comunicato in particolare che ci farà sapere tutti i dettagli. Una nuova incursione militare di queste che fa lo Stato cileno, con un enorme sempre contingente di persone, di militari, di polizia militare, e nel Rofue con la addirittura detenzione di un compagno, di nuovo di un'autorità mapuche, no Marta? Esatto, sì. Allora, diciamo che quello che è accaduto nell'Orofue appartiene a uno scenario di alzata assoluta di livello della repressione da parte del governo cileno, e sicuramente, insomma, abbiamo cercato di andare di pari passo tra seguire le lotte dei prigionieri politici e quello che succedeva nei territori, ma è assolutamente complicato, perché poi, come ci dicevano le donne mapuche, ultimamente in quella zona ci sono più di in Cile ci sono più di 200 recuperi territoriali, che quindi significa di persone che tornano sui propri territori, li occupano e vengono quindi seguiti come se fossero il nemico, e quindi, come capite, sono tanti fronti. In questo caso il Rofue Sì, diciamo che c'è stato un contingente assolutamente spropositato di 400 effettivi, mezzi che MOAC, che io non so bene che tipo di mezzo militare siano, ma mi immagino dalle foto che ho visto una sorta di car armato propriamente. Quindi parliamo di spiegamenti di forze assolutamente fuori misura, tutti appunto finanziati dal governo Piera negli ultimi 2-3 anni, quindi proprio continuando su questa scia del Mapuche nemico e terrorista. Quando poi vediamo che la risposta appunto non è mai armata, i morti sono sempre da una parte sola, i feriti e i morti sparati muoiono sparati alle spalle e difficilmente in quello che è uno scontro a fuoco questi sono i risultati. Questo ci lascia intendere che chiaramente il popolo Mapuche, come torna a rivendicare e a confermare, non è interessato a fare la guerra, è interessato a difendersi da un nemico che l'ha appunto spodestato e portato via dal proprio territorio e gli ha usurpato la terra. Quindi direi che quello che è successo nell'Oprofue è sicuramente emblematico per quello che è successo in quella zona negli ultimi mesi. Aggiungo che sanno poi, ormai il potere sa che colpire delle autorità Mapuche è un colpo notevole, anche se i Mapuche non si fermano, perché per un'autorità che si incarcera la comunicazione rimane, rimangono gli appelli alla resistenza e alla insomma all'alzarsi di questo popolo. Sì, e questo ma è molto... ci dimostra come lo Stato cileno sa dove colpire, cioè non è mai casuale la detenzione de certi compagni Mapuche, perché giustamente nella maggior parte dei casi sono delle autorità. Esatto, è anche difficile non avere in una piccola comunità Mapuche non avere riconosciute delle abilità che ti fanno diventare un'autorità di un certo tipo, perché devo dire che per esempio Luis Tranamil Nahuel, che è questo compagno che hanno arrestato ultimamente, come loro stessi ci dicono, da bambino segue la spiritualità Mapuche, la cosmovisione Mapuche, e quindi si è collocato lì dove si sente più a suo agio, che è esattamente quello che accade in queste comunità. Pensate che bello che quando voi nascete vi sentite artisti e sapete già che la vostra comunità, la comunità in cui vivete, vi servirà uno spazio di libertà e di possibilità di evolvere voi stessi nel ruolo che vi sentite in questo mondo. Insomma, io non è che conosco tanto persone che riescono a vivere così nella nostra società, ecco. Oppure no, se muore di fame perché ha scelto di fare il mestiere che gli piace. Faccio sempre questi paralleli perché poi sembra che chissà di che parliamo, invece parliamo di tutte cose molto reali. Sì, sì, no, parliamo di una realtà. Capisco io, per la vicinanza geografica che abbiamo col Cile, o via scontata, uno immagina già delle generazioni di ragazzi cresciuti, perché come c'è stato un genocidio pure culturale contro il popolo Mapuche, che forse ha resistito un po' meglio in Cile, si doveva riprendere, riscoprire quella cultura, ma esistono già le generazioni di ragazzi, di forse under quarantenni ancora, però che sono cresciuti dentro la loro società, la loro cosmovisione del mondo, e hanno un forte senso di appartenenza a quella comunità. Marta, non so se vuoi leggere, perché non è così lungo il comunicato, che ci dirà anche alcuni dettagli di un successo che è accaduto il 10 marzo, no? Esatto, quindi insomma sì, il comunicato è del 13. Al nostro popolo Mapuche, alla società civile cosciente, vogliamo dichiarare quanto segue. Come l'Oprofue abbiamo assunto storicamente la rivendicazione territoriale dall'occupazione militare con i primi arrivi dei coloni fino alla nostra comunità e dai processi che fin dagli anni 30 hanno dovuto affrontare le nostre famiglie insieme al carcere, la clandestinità, la militarizzazione e le diverse forme di repressione esercitate nello Stato del Cile. Oggi come l'OF continuiamo praticando la rivendicazione e il recupero territoriale come sentiero per la ricostruzione e liberazione del nostro popolo nazione Mapuche. Lo scorso 10 marzo un forte contingente di polizia militarizzata a Gope, in veicoli in gran parte del MOWAG e con esso circa 400 effettivi, hanno fatto ingresso in una delle nostre nella nostra comunità in una violenta incursione e cercando di arrestare alcuni integranti del nostro LOF, cosa che non sono riusciti a fare grazie ai nostri Wetrun e Zomo Weichafe, che hanno resistito in loro difesa. Wetrun e Zomo Weichafe sono le donne e gli uomini guerrieri. In un'operazione precedente all'irruzione, mentre uno dei nostri pegni tornava alla comunità dal suo luogo di lavoro nel comune di Cabrero, è stato intercettato da un grande contingente di polizia che, seguendolo già da Santiago e quindi avvalendosi della lontananza della sua gente, hanno potuto arrestarlo. Ci riferiamo al nostro Pegni, Luis Calfulican Tranamil Nahuel. Vogliamo che sia chiaro che, chiaro che il nostro Pegni Luis ha un ruolo culturale e spirituale nel Reuel del Gigliantue, del Rofue, e che da quando era bambino ha assunto la posizione politica dell'OFF e i lineamenti della resistenza nella lotta del popolo Mapuche, e dunque come l'OFF e dalle autorità tradizionali dello stesso gli diamo totale appoggio come prigioniero politico Mapuche. Allo stesso modo riteniamo valida la clandestinità dei membri del nostro LOF, la clandestinità, che in vista della persecuzione politica e della garanzia e delle garanzie nulle del dovuto processo, hanno assunto in un atto di ribellione questa forma di resistenza. Avvertiamo come LOF che non accetteremo altri interventi polizieschi nella nostra terra, e facciamo appello all'autodifesa dei LOF in resistenza. Amulepeta Inguechan, libertà a tutti i prigionieri e tutte le prigioniere politiche Mapuche, Marriciueo, LOF Rofue, 13 marzo 2021. Io credo che in un comunicato così piccolo ci sia intanto, appunto, bisogna saper leggere questo incitamento all'autodifesa, no? Sì. Ogni comunità sceglierà come autodifendersi e quello sarà il modo migliore, nessuno lo discuterà. Questa è una grossa vittoria, credo io, del popolo Nazione Mapuche, quindi l'autonomia di ogni comunità nell'appoggio della lotta di un popolo intero. Certo. E questo è stato strategico tante volte, perché non sempre sullo stesso territorio, una volta è l'esercito, una volta è un privato, una volta è una forestale, una volta è una impresa svedese, quindi sicuramente ognuno conosce il proprio territorio, i personaggi che lo attraversano, e quindi credo che questo sia stato vincente proprio nella storia del popolo Nazione Mapuche. Sì, e questa è una cosa dico sempre interessante, è una svolta importante la decisione dell'autodifesa, no, di un popolo, che ci abbiamo, dico, diversi esempi. Possiamo parlare ovviamente dei zapatisti zapatista in Chiapas, possiamo parlare anche delle Black Panthers negli Stati Uniti, la comunità nera che si organizzava afrodiscendente e aveva deciso pure di autodifendersi, quindi sempre un punto di svolta importante, e che anche ci fa capire sempre i contesti, perché non si decidono a caso queste cose. Esatto. Sì, tra l'altro, insomma, credo che anche questo la schiettezza, la trasparenza con cui si dice di fronte a questo tipo di giustizia, no, che abbiamo imparato a conoscere quei processi dei Mapuche piuttosto che quei processi della rivolta, quindi no, assolutamente costruzioni, processi costruiti su nulla, accuse completamente false, mancanza di un giusto processo, indagini che durano anni, la tortura del continuo rinvio dei processi, eccetera, eccetera, eccetera, fanno sì che giustamente, no, poi le forme di resistenza a questo diventano molteplici, cioè il darsi alla macchia, quella che noi avremmo chiamato latitanza, che loro non chiamano latitanza, loro chiamano proprio appunto darsi ai boschi, insomma, non so come dire. E quindi ecco, non si cambia paese, si rimane nello stesso territorio, ci si nasconde, si sa che ci saranno altre comunità che aiuteranno, si conta su un appoggio che è sempre quello del proprio popolo, quindi la forza del proprio popolo è poi la forza dell'autodifesa, della resistenza, delle diverse pratiche di lotta. Quindi questo, devo dire, credo che sia notevole, e non cambia molto, devo dire, tra il Cile e l'Argentina. Sicuramente cambiano piccole capacità giuridiche di sopportazione, insomma, di sollevabilità, ma ecco, insomma, l'atteggiamento verso il popolo Nazione Mapuche è questo. Sì, non cambia in quel senso. Quindi un altro caso, un'altra incursione sproporzionatissima dello Stato cileno. Ne parleremo, continueremo ad informare nella misura in cui arriverà ovviamente l'informazione. Marta, se ti pare, resta ovviamente sempre là con noi. Andiamo ad ascoltare, certo, un po' di musica, e si torna forse o per parlare del caso Maria Acuña, che ci sono buone notizie, diciamo, dentro di quella situazione, e anche la situazione degli incendi in Argentina, perché ovviamente è una situazione che è relazionata al territorio, relazionata ovviamente al pure il popolo mapuche e a questo che diceva Marta, l'accanimento degli stati sia da una parte o dall'altra degli Andes contro la nazione popolo mapuche. Marta, ci sentiamo tra pochissimo? Va bene. Dai. A dopo, allora Marta resta sempre là con noi e noi andiamo nell'87.9 di Radio Onda Rossa ad ascoltare un po' di musica. Musica che in questo caso parte così. Quello che ascoltate, Carmelo Torres, Rossa y Mayo, con sabor. Certo di sì, nell'87.9. La esquina del sol, Carmelo Torres, vivo parrandeando, Rosa y Mayo. Galantero te va, Rosa, galantero te va, llora, Rosa. Galantero te va, Rosa, galantero te va, llora, Rosa. Porque más nunca vuelvo a regresar, porque más nunca vuelvo a regresar. Porque me voy es para Europa, porque me voy es para Europa. Hombre, quizás no vuelvo más, lo que tiene que hacer es llorar. Porque ya Landero te va, y no lo vuelves a ver más, y no lo vuelves a ver más. Gabriel Torregrosa, te saludas a la Londa del Paso. Si al que viene o si este año, si al que viene o si este año. Sono le 17:37 minuti primi nell'87.9 di Radio Onda Rossa, la esquina del Soul, la Dame Blanche con la revancia si fa presente. Pochi anni fa questa cantata al Villaggio Globale, se non ricordo male, la Dame Blanche con El Hijo de la Cumbia, La Revancha. Se muele la canela, se muele pimienta en clavo, se mueve la molendera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sol, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta en clavo, se muele la molendera. Chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Lela Down, cumbia del Mole, dal Messico all'Italia attraverso l'87.9 di Radio Onda Rossa, Roma e il mondo intero grazie al www.ondarossa.info. Giovedì 18 marzo, 17:45 minuti primi di questa serata che ancora vede il sole là fuori, un po' nascosto tra le nuvole, ma ci sta. Con Marta avevamo detto di parlare della situazione del popolo Mapuche da una parte, ma anche dall'altra, degli Andes. E io volevo riportare una situazione che fa riferimento al popolo Mapuche nel ruolo imposto dallo Stato argentino di capro espiatorio, no? Di nemico interno che produce tutti i mali. Per esempio, il 7 marzo scorso è cominciato un grande incendio, una serie di incendi in diverse parti della Patagonia, 3 province coinvolte, Neuquén, Rio Negro e Chubut, un'area di, stiamo parlando, migliaia di ettari, con, dicevo, diversi focolai successivi, in diversi giorni successivi. Per questo già si parla dell'intenzionalità, addirittura le diverse autorità anche nazionali, Juan Cabandier per esempio, chi è segretario per l'ambiente e lo sviluppo sustentabile, ha parlato dell'intenzionalità e che quindi si cercheranno i responsabili. È un problema riferito, relazionato al territorio, perché? Perché come succede qua in Italia, quando la foresta nativa brucia anche con l'intenzionalità umana, e questo dopo vedranno i diversi PM che ancora in Argentina stanno cominciando ovviamente con le inchieste per sapere cosa è successo veramente e trovare ai responsabili se c'è stata la mano umana dietro di questi incendi. Dice, una volta che succedono questi incendi, il bosco, la foresta nativa non c'è più. Quindi certo, la legge, se non c'è più una foresta nativa della quale prendere cura, pertanto i diversi affari immobiliari cominciano, no, ad avvicinarsi quali avvoltoi in quelle zone. Ci stanno pure addirittura le concessioni miniere importantissime nella provincia di Chubut soprattutto. Stiamo parlando di un governatore nella provincia di Chubut, Mariano Arcioni, appartenente a il fronte elettorale che fa governo nazionale, pure del quale fa il kirchnerismo, che sarebbe una parte del peronismo per chi si intende di politica argentina. Questo governatore comunque ha degli antecedenti, diciamo, una fedina che dice che ha mandato a reprimere senza nessun problema agli insegnanti che stavano a fare lo sciopero o chiedendo per un aumento del loro stipendio, tenendo in considerazione la altissima inflazione che c'è nell'Argentina e quanto si alza il prezzo del costo di vita nelle province della Patagonia argentina. Io vi consiglio e vi do come riferimento un articolo molto interessante che giustamente potete trovare su mapucheit.wordpress.com, il blog, il sito della rete internazionale in difesa del popolo mapuche. C'è un articolo molto interessante su questa vicenda che vi spiega anche con i numeri la quantità di concessione. Per esempio, c'è fatto nella provincia del Chubut il catastro y padrón minero della provincia del Chubut, che è un documento pubblico del registro minerario della provincia, no? E ci sono un totale di 4.895 concessioni minerarie rilasciate, che in totale coprono più o meno un 20% del territorio provinciale. Più del 60% dell'area totale concessa è stata destinata alla ricerca, all'esplorazione o all'estrazione di oro o uranio. E quindi ogni concessione mineraria è un pezzo di territorio che lo Stato provinciale concede ai privati per la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento. In altre parole, è un pezzo di territorio in cui il governo sottoscrive la possibilità che il proprietario privato, per conto proprio o di terzi, possa sviluppare uno sfruttamento non desiderato dalla popolazione che abita quel territorio o in zone limitrofe. Giustamente nella provincia di Chubut ci sono state delle proteste, delle mobilitazioni popolari veramente di diversi paesi che protestavano contro l'installazione dei progetti di le grandi miniere, perché sappiamo che questo significa un inquinamento, o lo sanno bene loro per le esperienze e quello accaduto in altri sfruttamenti o in altri concessioni miniere lì in Patagonia, sanno quello che significa per l'inquinamento dell'acqua, per esempio, una cosa così basica. Ci sono state delle proteste, anche lì sono stati picchiati dalle forze dell'ordine provinciali i manifestanti, ed è successo, riferito questo, una cosa interessante, perché il presidente Alberto Fernández si è recato alla provincia di Chubut per vedere, per conoscere la situazione di questi incendi. Lì è stato accolto da, dice la stampa mainstream, le grandi testate che giocano molto politicamente a secondo dei loro interessi, dicevano che questi erano i manifestanti che protestavano contro le miniere e che hanno provocato una sassaiola contro il presidente, che per questo motivo se ne è dovuto andare, ha finito la sua visita, diciamo, protocolare prima ancora, o meglio detto, anzi non l'ha cominciata veramente questa visita ufficiale, perché è stato così accolto da una sassaiola. Si parlava di i manifestanti contro le grandi miniere, così sono stati perquisiti le loro case, così sono stati anche detenuti tanti. Da parte dei manifestanti, dei militanti contro le megaminiere, c'era il direttore di quello che è l'associazione per la casa e la terra lì nella zona di Bariloche, nella zona della Patagonia argentina, nella provincia di Chubut, questo particolarmente, Gustavo Castro, che ha denunciato le aggressioni da parte da un sindicato della costruzione, che stavano a fare lì i crumiri, lì infiltrati tra virgolette, provocando questi disturbi per permettere, dopo la perquisizione delle case, i militanti contro le mega miniere. Una forma di accanirsi, trovare una scusa, un pretesto per accanirsi contro chi sta protestando lì nella provincia di Chubut contro le mega miniere. Sembra che questi incendi sono ora controllati dopo un grande veramente sforzo. Si parla, come dicevo, diverse autorità parlano dell'intenzionalità, quindi c'è un PM già lavorando, però è stato bello che comunque in questa situazione si è trovata la possibilità di trovare il capro espiatorio, chi è il popolo mapuche. Mariano Razioni, il governatore della provincia di Chubut, giustamente ha utilizzato questa fantomatica argomentazione, questo fantomatico discorso, per già trovare apparentemente il nemico o i colpevoli, anche se, come dicevo, il PM appena sta cominciando a lavorare e deve ancora aspettare i verbali, le relazioni e tutti gli informi che daranno i vigili del fuoco. Prima manco è arrivata questa informazione, ma il governatore della provincia di Chubut già ha trovato il nemico, il popolo mapuche, ha detto lui, e anche altri operatori, li chiamerei così, politici soprattutto dell'opposizione, ora, cioè chi era governo fino a il 2019, il governo di Mauricio Macri, eppure ogni tanto sembra zizzagna sulla possibilità del popolo mapuche coinvolto in questa teoria. Vi consiglio di nuovo la lettura di questo articolo che troverete mapucheit.wordpress, il sito, il blog della rete internazionale di solidarietà con il popolo mapuche. Dopodiché diciamo che abbiamo chiuso un po' il panorama del popolo mapuche sia in Cile che in Argentina, ed è ora quindi di ascoltare un po' di musica, perché avremo ancora la collaborazione della nostra anima protettrice Marta, che ovviamente ci sarà fino alla fine di questa trasmissione di La Esquina del Soul, La Esquina del Soul, Soul 87.9 di Radio Onda Rosa. Un po' di musica, dai, e vi lascio un po' tranquilli. Sonora Marta, la reina del Rosedal. po' di cumbia a podere per ricaricare le batterie in questo giovedì 18 marzo, la Esquina del Soul. Così si comincia la seconda ora quando sono 18:02, primi di questa serata bella. C'ho le finestre aperte ma non vedo del tutto, non mi sembra proprio così bella, quindi proviamo a farla noi con la musica, con Celso Piña, cumbia a podere, per aprire la seconda ora della Esquina del Soul sul 87.9 DFM in transito. Ma di nuovo non sono da solo, sempre c'è lì lei, la nostra anima protettrice, la nostra regina della cumbia, e non so quanti altri titoli con i quali lei sicuramente non sarà per niente d'accordo, no? Marta, come stai? La scacciarata della cumbia. Bene. Non so, già ti inventiamo dei titoli, sicuramente non sei d'accordo con nessuno di questi titoli, però vabbè, dai, sai. Sei sempre... molto fortunato che stanno in quarantena, sai, perché. No, scherzo. Sì, sarebbe... vabbè, insomma, lo sai, mi metto un po' in soggezione perché ecco, io poi de cumbia così non mi sento molto maestra, mi sento una che è venuta qua un po' a scassarla a tutti, qualcuno si è cascato, qualcuno no. Ma ecco, insomma, a me se poi se la godono e si divertono, io sono felice, anche senza grandi appellativi, ecco. No, guarda, io non ti voglio... comunitaria. Io non poi, ti... no, sì, sempre. Diciamo, c'è sta Santa Marta, dove un giorno andrò a fare una vacanza, capirò tante cose, arriverò, mi tireranno i fiori, che ne so. Si tratta sempre di una cosa, un lavoro, una costruzione, se vuole, comunitaria, collettiva, però sì, se mi permetti ti accolo questa categoria, sei stata avanguardia qua in questo senso, almeno come divulgatrice di un genere che sicuramente anche tanti tuttora non conoscono. Io come sudamericano me ne approfitto e sai, quando tiro fuori la carta della cumbia è sempre una carta vincente, no? Come presentazione della cultura d'appartenenza, perché anche se essendo cresciuto, come dico, nel rock, nella musica rock e i derivanti, la cumbia fa parte anche dell'identità argentina, quindi sempre una chicca che uno tira fuori e funziona. Esatto, e poi insomma anche se molti imparassero questo connubio che c'è molto spesso, devo dire, forse in Cile, soprattutto anche un po' in Messico adesso, del punk e cumbia. Sì. Quindi insomma ci sarebbe molto da ragionare. Sì, però, sì, ecco, sì, no, a forza di... Indubbiamente la cumbia ha delle capacità, poi noi siamo questa gabbia mentale ancora di... un paese latinoamericano, quindi salsa, merengue, questi balli un po' così. Oh, io sono uscito della mia gabbia mentale allora, perché anche se fa parte, come dico, dell'identità, è una cosa molto classista, si snobava alla cumbia, non si ballava, certo. Ovviamente ci faceva divertire, ci faceva ballare, ci faceva passare dei buoni e belli momenti, no, in tutte le feste, però si snobava, e quindi almeno io sono uscito di questa gabbia mentale e ora me la godo così tanto. Diciamo, Marta, torniamo in Cile perché parliamo delle novità sul caso Mario Acuña, che sono importanti alla fine, no? È cominciato il processo, diciamo, sono stati formalmente accusati 3 carabinieri per l'aggressione. Esatto, no, poi l'altro giorno, no, la scorsa puntata l'abbiamo salutata, no? E lui ci ascoltava e noi fenomenali l'abbiamo salutato in italiano. Va bene, però avrà capito. Ha mandato questa cosa, mi prendeva in giro, ma io mi faccio prendere in giro volentieri da Mario, ecco. E, no, appunto, quest'audio ce l'ha mandato Mariana, a cui io insomma avevo chiesto, sempre perché mi piace poi far parlare le persone direttamente coinvolte. Ormai insomma si è aperto questo canale, ogni tanto mandiamo i saluti a Mario, ci aggiorna su quelli che sono i suoi progressi, insomma, nella fisioterapia, le cure, nel poter verbalizzare anche delle parole. Ormai lui muove la bocca, riesce quasi a parlare, si leggono le sue labbra, e questo è molto emozionante, visto che comunque, ricordiamo, Mario era un operaio che stava tornando appunto dal lavoro, si è fermato a vedere questa barricata, insomma, le barricate per più di un anno, insomma, che è arrivato il Covid, erano un po' in tutta la città, in tutte le strade, in ogni quartiere, portava avanti anche la sua piccola rivolta, non era sicuramente solo Plaza Dignità. E Mario viene subito travolto dalla carica della polizia insieme a tutti gli altri, ma lui viene subito brutalmente, e quando dico brutalmente lo dico perché gli stessi poliziotti affermano che si sono fermati quando hanno sentito che prendendolo a calci in testa non prendevano più a calci qualcosa di duro. Certo. E questo la dice lunga, no? Quindi uno dà un calcio, sente che la testa non è più dura e dice agli altri: regà, fermatevi perché forse abbiamo passato la misura. Mario viene portato a casa prima, o addirittura viene soccorso, mi pare, da qualcuno, non so se è proprio a casa sua, comunque viene portato in una casa dove c'è una fotografia in cui Mario già non sembra lui, ha il viso completamente tumefatto, perde tantissimo sangue dalla testa, addirittura qualcuno dice questo non è sangue, questa è materia cerebrale. A questo punto viene portato di corsa in ospedale, dove riceverà una sorta di seconda aggressione, come se non bastasse, perché poi appunto i carabinieri, quando vedono uno gonfio, dicono: beh, se gli hanno menato loro c'era qualcosa, noi gli diamo il... cioè, questo è un po' il modus ragionandi dei carabinieri di Cile. E quindi, diciamo, Mario viene poi ricoverato e uscirà definito in stato vegetale, e ha una stomia, ha la tracheotomia, quindi non mangia, non respira, ha bisogno di un condizionatore che gli mantenga una temperatura costante, di un deumidificatore, di modo che appunto l'umidità è una cosa che lo proprio lo strema, perché crea tutta una serie di condizioni negative. E quindi la cura di Mario va da quella del suo ambiente alle cure di cui ha bisogno, quindi il cambio della tracheotomia, della stomia, eccetera eccetera. Queste sono le condizioni in cui viene ridotto un uomo che non stava facendo niente se non guardare una manifestazione in questo senso. Non che fosse stato giusto se fosse capitata a un altro, però quando parliamo di persone che sono state travolte dalla repressione e dalla violenza della polizia, intendiamo esattamente questo. Mario non è sicuramente l'unico esempio, penso a Fabiola Campigliai, appunto, che usciva dal lavoro, viene colta in pieno volto da un lacrimogeno. Sicuramente Mario è l'emblema della violenza poliziesca. Tutto ciò accadeva a pochissimo tempo dall'inizio della rivolta, che ci fa capire che già a rivolta appena iniziata l'aggressione poliziesca era già ordinata con il massimo della violenza. 23 ottobre del 2019, esatto, accade questo, quindi sì, appena veramente iniziata la rivolta in Cile. Esatto, forse 10 giorni. Quindi la storia di Mario è emblematica, ed è emblematico la potenza di Mario. Io vi dico di andare a vedere il video per ascoltare le nostre parole, che poi insomma sono la sintesi di quello che vi diciamo ogni giorno da questi microfoni, ma anche per vedere il desiderio di Mario di voler alzare quel braccio, e che fatica è stato in questi mesi lavorare per riuscire a muovere quel braccio, alzare su un pugno che è veramente un pugno fatto di tanta coscienza presa in un percorso di malattia, di resistenza, di cure. Accanto a Mario ci sta, oltre la sua famiglia, quei compagni e quelle compagne che sono le brigate sanitarie, piuttosto che quelli che portano i primi soccorsi a queste persone, sapendo che sono persone del popolo, che sono entrate in meno, che entrano in famiglie che economicamente insomma sicuramente già stanno in una situazione abbastanza di difficoltà, e che sanno che la sanità pubblica cilena non esiste. Questo non esiste ce lo conferma pure il fatto che quel pochissimissimissimo, e tengo a sottolinearlo, veramente pochissimissimissimo fatto anche con poca voglia, che dà la sanità pubblica a Mario, è ciò che avrebbe dovuto avere di diritto, ma che invece l'avvocato ha dovuto reclamare con una facendo terribili pressioni. Questo appunto è la storia, che è questa è la prima battaglia diciamo vince in un certo senso Mario con una fatica notevole. Non solo sono passati tanti mesi, ma non era affatto certo che qualcuno fosse accusato di quello che a lui è successo, o comunque venisse ritenuto responsabile. Quindi sentiremo una voce di una Marianna assolutamente emozionata, insomma, sulla rete, poi anche la coordinatora, insomma, ci sono diversi video in cui è palpabile l'emozione. Non bisogna normalizzare la storia di Mario, non dobbiamo scendere ad avere pietà per un uomo ridotto in quello stato, dobbiamo invece rimanergli fortemente accanto col sorriso che abbiamo avuto nell'accompagnare questa lotta, e non c'è spazio, diciamo, il rispetto c'è per la sua situazione, ma non c'è spazio, secondo me, per così pietismi vari. Perché veramente lui è proprio, credo, l'emblema non solo della violenza poliziesca, ma anche di una pazzesca resistenza, sempre, sempre assolutamente col sorriso. Quando non alza il pugno, Mario appunto ci verbalizza in un modo o nell'altro, sì che la lucia, e manda così, e manda dei saluti, perché questo è quello che vuole che facciamo. Quindi io credo che sia veramente un enorme guerriero Mario, oggi forse più di quando non lo conoscevamo, perché questa situazione l'ha costretto, e questo è quello che è accaduto in tantissime famiglie di persone che appunto sicuramente è successo nelle famiglie dei prigionieri, delle prigioniere politiche, ma sicuramente anche in chi si è trovato a dover gestire situazioni che non è affrontare un processo, ma delle vite che cambiano radicalmente, perché cambiano anche no? La propria abilità e lo Stato ti riduce umanamente in un altro modo. Appunto. Ed è sicuramente una grande parentesi della rivolta cilena, perché insomma basta pensare più di 400 occhi che sono stati mutilati quando non sono stati tutti e due, perché quello è l'inizio di questa montagna altissima di violenza che è arrivata poi a estremi come quello di Mario. Quindi io voglio di nuovo abbracciarlo, voglio abbracciare con lui tutta la sua famiglia, i compagni e le compagne che gli stanno intorno, perché non li lasceremo mai da soli, proprio mai. Facciamo così, Marta, adesso ascoltiamo l'audio di Mariana, la portavoce della famiglia di Mario Acuña. È un audio di 1 minuto 23 secondi, in un spagnolo direi molto chiaro, quindi lo lasciamo scorrere tutto, lo ascoltiamo insieme, perché con un minimo di attenzione credo che si può capire l'idea. Comunque noi con Marta dopo facciamo la traduzione e commentiamo quello che ci dirà Marta, dicevo, la portavoce della famiglia di Mario Acuña. Buenas, ¿cómo están desde Chile? Mariana San Martín, vocera de la familia y amigos de Mario Acuña. Queríamos contarle con mucha emoción de que este martes 16 se realizó la formalización de tres de los agresores de Mario. Estos quedaron en prisión preventiva y eso ha sido un aliciente a la tremenda batalla que hemos sacado adelante por conseguir justicia. Los agentes del Estado en Chile están agrediendo al pueblo, se están violando los derechos humanos en Chile y estamos todos unidos en solidaridad para sacar las causas adelante. Vamos a seguir luchando porque aquí hay más personas involucradas, más agentes del Estado, y también vamos a perseguir las responsabilidades políticas. Queremos agradecer el apoyo desde Italia de todos los compañeros, agradecer las atenciones que llegan de allá, los saludos. Esto es un caso de humanidad y así se demuestra también que la solidaridad logra mover montañas. Un abrazo afectuoso a todos y estamos en comunicación. Muchas gracias. Così parlava Mariana, la vocera, la portavoce della famiglia di Mario Acuña. Interessante le cose che diceva, no, Marta, rispetto all'unità. Più che mai in questo momento per affrontare tutti i processi, perché si andrà avanti anche cercando la responsabilità politica, hanno detto. Esatto, le responsabilità politiche. Beh, sappiamo che comunque la rivolta è stata accompagnata da un teatrino della politica allucinante, dalla richiesta di un Pablo Intero, di rinuncia a Piñera, di mettere Piñera, fino alla messa in mezzo di un ministro degli interni trattato come un pupazzo e che insomma faceva il pupazzo dei pupazzi. Come diceva Marianna, lo Stato cileno sta violando le persone, la polizia aggredisce le persone insomma, poi c'è una notizia di ultima ora, mi pare, che poi dopo non so se vuoi commentare, l'arresto di 38 persone, ancora si continua a portare via persone in maniera così abbastanza curiosa quantomeno, e sicuramente il fatto che appunto il desiderio di voler mettere paura, no? Mi sembra che è la cosa che più salta agli occhi, e quindi ecco questa unità, questa forza e l'importanza delle responsabilità politiche sicuramente, perché in un processo che sta portando avanti il popolo cileno in questa costruzione, diciamo, nuova costruzione, in questo percorso piuttosto pericoloso e anche insomma un po' complicato, le responsabilità politiche di quello che è successo durante la rivolta sono importanti, perché il popolo cileno non si deve far fregare, quindi insomma c'è una costituente da mettere in piedi e bisogna sapere le responsabilità di chi sono perché veramente si riesca a fare un lavoro pulito, insomma, o si, comunque si ottengano dei risultati puliti, ecco, certo. E questo è quello che il popolo cileno vuole, perché sa che quello che si è ottenuto fino adesso non è stato gratis e sicuramente Mario Acuña è stato uno dei prezzi più cari. Tre sono i carabinieri accusati, formalmente accusati, è cominciato il processo l'altro ieri, il martedì, Jonathan Alexis Neira Chaparro, Victor Antonio Lastra Marguirot, i due carabinieri e il capo secondo Henry Giovanni Cuellar Vegas, per i fatti, come dicevamo, accaduti il 23 ottobre del 2019, che ha ridotto a Mario Acuña una situazione veramente difficilissima per lui, per la famiglia, è diventato quasi un caso testimone e ha permesso pure, o è stato direi un altro motivo per arginare questa lotta contro lo Stato cileno, perché diceva Mariana si va avanti in questi processi cercando giustizia, ovviamente cercando anche le responsabilità politiche, che non è poco. Abbiamo fatto e di tutti i colpevoli, tra l'altro, appunto, no? Sì, perché sì, poi sì, appunto, che i soldatini diventino poi capri espiatori è troppo facile, no? Ma questo direi è quasi scontato, no? Però esatto, certo, deve essere dimostrato, voglio dire, la responsabilità politica. È vero che le forze repressive dello Stato, cioè polizia militare in tutte le loro forme, nelle diverse geografie, no? Sono formate da persone che forse non tendono tanto a ragionare ma a seguire delle ordini, e giustamente quelle ordini sono impartite da alcuni che prendono una decisione politica, sono quelli che quasi sempre, direi, restano impuni e non devono dare nessuna spiegazione di fronte alla giustizia. Lì in Cile si va ovviamente anche a per loro. Marta, stiamo per arrivare, mancano 12 minuti ancora per le 18:30. Io direi di mettere un po' di musica. E quasi che possiamo consegnare, vediamo se mi trovo qualcosa, mi invento qualcosa con un po' di musica, e se no consegniamo la diretta dell'87.9 alle 18:30. Che dici? Perfetto, io casomai vi saluto adesso, così ti lascio libero di accompagnare con la musica fino a quando vuoi, di appropriarti un po' della plancia della radio. Stiamo qua. Che comunque è divertente di tornare a giocare, a fare il radiofonico così come, come sei sempre stato. Sì, un piacere veramente. Boh, Marta, allora ti saluto. Già non so se dirlo, perché la settimana scorsa credo che ho fatto proprio così. Ti ho detto ci vediamo come un augurio, no? Ci vediamo la prossima settimana. Boh, non è successo. Sì, era troppo strano. Io l'ho detto per scaramanzia, ma insomma, qua tocca far passare 3 settimane. Una volta che si è pizzicati. Oh, dai, 72 ore. Di questa biccia non ci si libera fino a. Aspettiamo il risultato almeno altre 72 ore e vabbè, io lo dico, ci vediamo la prossima settimana qua nello studio di Radio Onda Rossa. E comunque non ci aspettiamo. Dai, va bene? Dai, un dai, abbraccio, saluti. Un saluto a tutti e a tutti. Ciao ciao. Così Marta, la nostra anima protettrice, ha fatto parte di questa trasmissione, di questa puntata della Esquina del Sol nell'87.9 di Radio Onda Rossa, ed essendo ancora le 18:19, quindi abbiamo 10 minuti fino alle 18:30 e possiamo anche andare oltre, vi propongo come sempre un po' di musica. In questo caso Onda Tropica, quello che voi potete ascoltare sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Onda Tropica, linda mañana, speriamo almeno averne una domani. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor, de los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona, por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia es hermano del ya famoso ritmo de merengue. La vida se ennoblece con su resplandor, de los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona, por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia es hermano del ya famoso ritmo de merengue. ¡Qué bonita mañanita! ¡Qué bonita! Linda mañana, Onda Trópica, el 87.9 y Radio Onda Rosa. Venite a collaborare, sapete, non si campa d'aria. Le volete? Continuano ad arrivare. Quindi fate una collaborazione, troverete delle diverse forme di collaborare con Radio Onda Rosa nel www.ondarossa.info. Le volete oltre la pandemia? Continuano ad arrivare, chi sta qua è perché ci tiene e ne ha bisogno della vostra collaborazione. Fate parte di Radio Onda Rosa. Linda mañana. Speriamo di averne una così domani e tutti i giorni, ma chi lo sa. Le ultime canzoni che suonano in questa puntata 18 marzo 2021 della Esquina del Sol, Onda Trópica con Linda mañana, Sergent García. Ora, quello che ascoltate, Yo me voy pa' la cumbia, Sergent García. Ponen a bailar y todo el mundo de repente empieza a brincar. Mi ritmo es callejero, por eso te da cuero. Mi sangre callejera nace aquí bajo la acera. Por eso cuando yo canto latino, me escuchan en el mundo entero. Achureo, me está entrando el cosquilleo. Achureo, abureni, vente conmigo que me voy. Sergent García se va pa' la cumbia, ma noi ancora restiamo alcuni minuti, perché sì, ce ne andiamo verso la cumbia, ma tra poco, ovviamente, ci abbiamo alcuni minuti e avendo ancora alcuni minuti per approfittarcene sull'87.9 di Radio Onda Rossa per ascoltare un po' di cumbia, che è stata credo abbastanza variegata in questa puntata del 18 marzo. Quello che viene ora è una cosa che non poteva mancare, cioè facciamo una puntata della Esquina del Sol senza quel blocco di cumbia psicodelica, di cumbia peruviana, di un classico a questo punto, The Roots of Chicha, interessantissimo tutto ciò che c'è lì, Los Destellos, Elsa, chi sarà Elsa? Los Destellos. Esos tus ojitos me han embelesado, tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor. Los Mirlos si fanno vedere e soprattutto sentire, e perché prima ci sono stati Los Destellos, ora Los Mirlos, per tutte le ragazze del Perù, dell'America, del mondo, per tutte le ragazze, i ragazzi, per tutte e tutto, muchachito dell'Oriente, Los Mirlos, La Esquina del Sol, Radio Onda Rosa. Muchachita del Oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del Oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. ¡Oh, oh, vaya! ¡Rico sabor! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh muchachita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. A bailar, muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Sí, que arriva la fine di questa puntata della Schiena del Soul sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quando sono le 18.35 e non ci resta più tempo, solo per salutarci, ringraziare ovviamente il vostro ascolto, mandare un saluto particolare a chi si vede privato dalla sua libertà in questo momento, quindi a tutti i compagni e le compagne detenuti e detenute un saluto particolare come sempre per tutti loro da Radio Onda Rossa. Continuate ad ascoltare l'87.9 di Radio Onda Rossa, o se ci siete in un'altra parte del mondo sicuramente lo fate attraverso il www.ondarossa.info. Io vi ringrazio nuovamente, Mariano vi saluta, aspettiamo fino alla settimana prossima ed speriamo di avere qua con noi nello studio di Radio Onda Rossa a Marta presente, se no non vi faremo mancare il vostro consueto appuntamento a partire dalle 17 con la Schiena del Sol, che vi saluta, vi ringrazia di nuovo per la pazienza e per l'ascolto, quindi sarà fino alla prossima settimana, fino al prossimo giovedì. Buona serata, buona lotta sempre, ciao, fino al prossimo giovedì. A ver, que la cumbia es el futuro, así que... Pacto viscum donna. ¡Atecito de mí!